Europa 24. La Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse. Ci colleghiamo con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore a Francoforte. Buongiorno Alessandro. Che considerazioni possiamo fare in attesa della conferenza stampa del presidente della BCE Mario Draghi? Sì, buongiorno. Era atteso che la BCE non toccasse i tassi né annunciasse nuove misure. Del resto a marzo aveva prodotto un fuoco di fila di nuovi interventi, quindi adesso diciamo che li sta digerendo e mettendo in pratica. Il comunicato che è stato emesso proprio pochi minuti fa precisa però anche che alla conferenza stampa il presidente della BCE Mario Draghi spiegherà i dettagli di come verranno realizzati gli acquisti di obbligazioni societarie, che era una delle novità annunciate il mese scorso, come avevamo anticipato sul Sole 24 Ore di stamattina. Quindi non ci resta che aspettare Draghi alle 14:30, il quale probabilmente vorrà anche rispondere a molte delle critiche che ha ricevuto soprattutto da parte tedesca nelle ultime settimane. Grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore a Francoforte. Saremo a vedere quindi quali saranno le dichiarazioni di Draghi fra pochissimo. Intanto il giudizio della Commissione Europea su conti pubblici dei paesi arriverà a maggio dopo le previsioni economiche di primavera, lo ha ribadito la portavoce per le questioni economiche Annika Breidhardt, senza sbilanciarsi sui giudizi sui singoli paesi ma rilevando miglioramenti sui livelli di deficit e rapporto debito-PIL, il tutto sulla base della certificazione dei conti pubblici 2015 diffusa proprio questa mattina da Eurostat. Il deficit medio dei 19 paesi dell'Eurozona nel 2015 è sceso al 2,1% secondo Eurostat, continua il trend in calo per il sesto anno consecutivo. Per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese ha chiuso il 2015 con un deficit al 2,6% del PIL per un ammontare complessivo di 42,4 miliardi di euro e un debito che invece è salito al 132,7% del prodotto. Ed ora il dibattito europeo sull'immigrazione. Bruxelles sposa gli obiettivi del Migrant Compact, ma il giudizio resta sospeso sugli strumenti e i contenuti. In una lettera indirizzata al governo italiano, il presidente della Commissione Juncker si dice pronto a lavorare su tutti i temi dell'accordo proposto dall'Italia per fermare i flussi. Juncker evidenzia inoltre la necessità di forme di finanziamento innovative, ma non fa cenno agli eurobond proposti da Renzi. D'altra parte, anche il ministro degli interni, Alfano, a margine del Consiglio europeo, invita a non dare troppa importanza al dibattito intorno allo strumento finanziario da usare per trovare i finanziamenti. L'importante è che si trovino, ha chiosato Alfano, a margine del Consiglio. Ma su come fare questi accordi con i paesi di origine, le posizioni sono ancora distanti. Credo che il modello dell'accordo tra Unione europea e Turchia, quando ce ne saranno le condizioni, potrà essere replicato anche in Libia. Klaas Dijkhoff, ministro dell'interno olandese, a nome della presidenza di turno dell'Unione. I paesi, dice, che stanno di fronte all'Italia non sono come la Turchia, quindi non si può copiare il modello d'accordo sancito con Ankara. E proprio sull'intesa con la Turchia, entrata in vigore il 4 di aprile, arrivano critiche dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.